Allora, abbiamo visto la scorsa volta come si possono prendere delle lettere nel Sefer Yetzirah, si considerano delle pietre, si fa questa metafora, le pietre che costruiscono delle case. Due lettere costruiscono due case, due pietre costruiscono due case, due lettere costruiscono due parole. Le lettere Aleph Bet costruiscono le parole Av e Ba, no? E abbiamo fatto un approfondimento su una lettera, una parola specifica di tre lettere, Zohar, Razza, Sara, e abbiamo spiegato come si può trasformare dal male in bene, da una combinazione di lettere ad un'altra. E ora approfondiamo ulteriormente questo concetto. V'hainyan bazehu, il concetto qui da spiegare sarebbe Deine bechola otiyot, in tutte le lettere, in elefi ofen atzerufim, secondo la maniera in cui vengono poste le lettere, in quale ordine, ken yiye haor sechel vetochen apnimi hamemaleotam. Così sarà l'illuminazione intellettuale, significa l'idea, vetochen apnimi significa il contenuto interno, che riempie, tra virgolette, queste lettere o questa parola, e assovevotam e che li circonda. In altre parole stiamo dicendo, e ora faremo anche un esempio, che la parola ha un contenuto, cioè trasmette un'idea, ogni parola vuole trasmettere qualche idea, e ha un contesto esterno anche. Quindi quello che riempie, si intende dire, il contenuto stesso contenuto nella parola, e il contesto esterno alla parola è quello che circonda. Questi sono due termini che usiamo molto spesso nella Kabbalah. Memale, riempie, vesoveve, circonda. Nel contesto della nostra metafora, che stiamo parlando delle parole, delle formate da delle lettere, che appunto diventano dei contenitori per contenere un'idea, quindi questo, l'idea riempie il contenitore. Dall'altra parte abbiamo anche un contesto esterno che circonda il concetto, la parola in questo caso. Ukemo betevat av, come per esempio nella parola av, padre. Areyesh lo perusho bemuvano, ha il suo senso più semplice che si intende con la parola av, padre, e poi c'è qualcosa di più esterno. Viesh lo bamashu chutz, esterno mimenu, un mesovav meito, ed è anche una conseguenza che deriva da questo. Questo è anche considerato esterno. Abbiamo il concetto padre e concetto prodotto che può derivare dal concetto padre, no? Chen betevat bo. Pure se facessimo l'esempio della parola opposta a av, cioè combinando le lettere in ordine opposto, bet alef, che significa bo, vieni, o viene, ba. De amesovav mimenu, quando parliamo di ciò che ne consegue, ovvero qual è il contesto, ume ain ba ule an ba, quando diciamo qualcosa ba, viene, allora ok, viene, ma la domanda è da dove viene e verso dove viene, questo è intorno. Chen hu bechol hatevot, così in tutte le lettere, tutte le parole, scusate, Shiesh lahem mashe memaleotam, hanno un contenuto e hanno un intorno, mashe sovevotam, ciò che li circonda. Velachen, e per questo motivo nelle opere dei nostri maestri, soprattutto cabalisti, ha otiot nikraim kelim, per quando diciamo lettere usiamo il termine kelim, contenitori o recipienti, per questo motivo qui. Perché questo trasmette l'idea che abbiamo appunto appena ricordato. Così come un contenitore o un recipiente, ukeshem shehakelim, harehem mekabelim betocham et hanatun bahem, ricevono, cioè contengono al loro interno ciò che vi si mette, ciò che viene posto al loro interno, vieshnam kelim mekabelim ochel, ci sono diversi tipi di contenitori, alcuni sono adatti per contenere del cibo, yeshnam kelim mekabelim mashke, altri sono adatti a contenere del liquido, bevanda, inei kemo ken haotiot, nella stessa maniera anche quindi le lettere, Arehem e Kabelim contengono al loro interno et Or Sechel, quell'illuminazione intellettuale, significa l'idea, il concetto. Ukefi Ofen Serufea Otiot, secondo la combinazione dell'ordine delle lettere, Ken Yehatevahi. Così sarà la parola, cioè quello sarà il senso della parola. Bedugmat Ziur Habait, come per esempio, di nuovo tornando alla metafora della casa del Sefer Yetzirah, come la raffigurazione di una casa, o più di una raffigurazione, la forma di una casa. Be'orko, nella sua lunghezza, Rochbo, la sua larghezza, Govho, la sua altezza, ovviamente dipende da come sono disposte le pietre che hanno fatto costruire la casa, o le pietre, o i mattoni, o quello che sia. Lefi mispar avanim, secondo il numero delle pietre, vesidram, e come sono state ordinate, come sono state messe in ordine, più verso il largo, più verso l'alto, eccetera. Ora, questo è quello che abbiamo detto finora. È lineare, nel senso che se ci sono delle lettere che formano una parola, che contiene un'idea, è tutto chiaro. Contiene un'idea e si trova in un contesto esterno, contiene un'idea internamente ed è tutto lineare. Ora introdurremmo l'idea che è possibile che ci siano delle lettere, cioè dei contenitori di luce, di idee, nel senso metaforico ma nel senso divino, di energia divina, che non funzionano in maniera lineare, che in qualche maniera bisogna che sono nascoste, bisogna andare a cercarle e bisogna in qualche maniera riportarle al loro senso originale, quindi che sembra abbiano perso il loro senso originale, come se tu vedessi delle lettere che non hanno senso, una combinazione di lettere che non forma una parola, che non si capisce se è l'inizio, se è la fine, se è la metà. Non lineare in assoluto. Di cosa stiamo parlando? Ora vediamo subito. Vehine hitavuta olamot, la creazione, il portare in esistenza dei mondi, bria yetzira asia, i tre mondi inferiori, cioè quelli più vicini alla creazione vera e propria della materia, l'ultima è la asia, il mondo dell'azione, escludendo il mondo della azilut, primo dei quattro mondi, che è un mondo dell'emanazione, che è ancora, diciamo così, vicino al creatore, ancora non è considerata una creazione indipendente. Dal mondo di Beriah, che significa creazione, Bereshit Bara, creato, lì siamo già in un contesto dove la presenza del creatore è molto molto nascosta. Allora, la creazione di questi mondi avviene, un mishvirata kelim de tohu, avviene come conseguenza dopo la rottura dei kelim. Cosa sono kelim? Abbiamo appena spiegato, recipienti, contenitori, quindi ciò che... No? Sì, si usa la parola. Ciò che dovrebbe contenere delle luci, delle energie divine molto elevate, della loro rottura, cioè sono scoppiati a causa di non poter essere in grado di contenere un'energia così forte. Come abbiamo spiegato anche Shabbat, no? Anche l'anno scorso abbiamo studiato questo. Allora, rapportato alle parole cabalistiche, significa le lettere non hanno più un senso. Le lettere sono cadute, tra virgolette, in una maniera, lettere cioè contenitori, cioè portatori di una certa idea, che però non, sembra che non la portano più. No, non si può, o è difficile capire come la portano. Nel linguaggio cabalistico la metafora che si dice è che le scintille del Tohu sono cadute. C'è stato uno scoppio. Lo scoppio ha fatto sì che, diciamo così, il contenitore si rompa, si spacchi in moltissime scintille, e tutte queste scintille sono sparse nella realtà. Vanno rimesse insieme. Esatto. Allora, quando noi diciamo la rottura dei recipienti di Tohu, significa otiyot de Tohu shenit pardu, le lettere di Tohu che si sono separate tra di loro. una cosa lineare è quando le lettere vengono insieme e formano una parola, quindi è un contenitore che trasmette qualcosa, che contiene qualcosa e trasmette qualcosa. Le lettere separate significa non c'è più questa coerenza, non c'è più questa chiarezza. Da qui deriva ciò che si sa nel mondo cabalistico, il seguente, Umehenu Arapach Nitzotzim. Rapach è un numero, non è un acronimo. 288 Nitzotzim, cioè scintille o nitzotzot, shetzrichim litbarer be'adalet galuyot. C'è scritto nella Kabbalah che durante il corso dei quattro fasi di esilio che esistono nella nostra storia, che adesso siamo nel quarto, nella quarta di queste quattro fasi, la prima è quella dell'Egitto, eccetera, qui siamo nella quarta, Egitto, Grecia, Babilonia, Roma, Roma, Babilonia, Grecia, scusate. Babilonia, Grecia, Roma, le 288 si quantificano queste scintille cadute, tra virgolette, perse nella rottura del Tau con il numero 288. E poi c'è scritto Asher, Resh Bet Nitzotzot, 202 delle scintille, Nitbareru Begalut Mitzrayim, sono già state elevate durante il momento del Galut Mitzrayim, dell'esilio in Egitto. E questa è una cosa che si appoggia a un'allusione in un versetto, in un passuk della Torah, dove c'è scritto quando, nel momento dell'esodo, Kmoshe Katuv, Vegam Erev Rav Allah Itam, e anche un grande miscuglio di genti è salito fuori dall'Egitto insieme a loro, che non erano di origine ebraica. La parola Rav, Resh Bet, 202. Corrisponde al numero 202, come per alludere che i 202 scintille, le 202 scintille sono salite con loro dal Egitto. 202 delle 288. Esattamente. Quindi rimangono Pei Vav, 86, 86 Nitzotzot. Queste 86 anche corrispondono ad una parola in ebraica numericamente a livello di gematria, che è la parola Hateva, la natura, Hateva. Queste altre 86 vanno trovate raffinate, le Hitbarer, Be'agim el Galuyot, nelle seguenti tre fasi di esilio, di Galut. Ve'ha'ikar hu be'galut ze acharon, e la parte più importante è in questo ultimo Galut. Che cosa che è indicata dalla difficoltà del Galut addirittura. Ha'olebe koshio, che è più duro questo esilio rispetto ai due che lo hanno preceduto. Alla Shnei Galuyot Shekadmulo, che lo hanno preceduto. E ora entra una spiegazione di come la parola Hateva, la natura, indica proprio il concetto della celare di questa luce divina che si esprime in queste 86 scintille, ma che in realtà si esprime in tutto ciò che è quella la nostra realtà, dove la realtà divina è celata. Questo è alluso nella parola Hateva, la natura, se andiamo a vedere i vari significati ebraicamente parlando della parola Hateva. Vediamo. Deinè Teva, la parola Teva in ebraico ha un significato che significa anche affondare. Se una persona affoga nell'acqua, si dice Tava Bayam. Abbiamo letto adesso nell'Asia Shir Moshe che gli egiziani, Farò Vechelò, abbiamo usato il termine Tava Beyam Suf, è stato affogato e si sono affondati nel mare, quindi qualcosa che va a fondo, come un sasso che va giù nel mare, si usa il termine tava, la stessa parola di teva, litboa, entrare dentro. Dehine teva re pirushot zlila veshkia. Inoltre la parola teva significa b'chen bilashon igul vetabaat. La parola teva può anche significare una cosa tonda, un cerchio. Per questo la parola anello in ebraico si dice tabaat, che è la stessa parola di teva con una tava alla fine, tabaat, tondo. Perché? Perché il concetto è sempre lo stesso. Dinyan hateva hu ma sheha emet einon nireh. il concetto del teva, cioè della natura, è che la verità non è visibile. La realtà divina non è visibile, la vera verità. Esatto. Ve'asheker nireh l'emet, e la falsità sembra essere verità. Come quando qualcosa va a fondo nell'acqua, ukmo al derech davara nitba b'maim, se una cosa va a fondo nell'acqua, she'amaim mechassim oto mikol tzad upina, e le acque lo coprono da ogni lato, da ogni angolo, arei be'emet, arei davara nitba, qual è la verità? La verità è che la cosa è lì presente. Yeshno b'metziut, kmo she'u begilui, nella stessa maniera in cui si trova qui, si trova lì, come quando era rivelato, ma solo che non è più rivelato. E la shul ne'elam, solamente che viene celato, venignase, nascosto, toch hamayim, all'interno delle acque, hamechassim oto, che lo coprono. Come lo coprono? Ketabat, come un anello che copre da ogni lato, come una cosa tonda. Assovev ve'ashvami kol tzad, perché tonda? Perché così come il cerchio non ha inizio e non ha fine, le cose che sono nascoste nelle acque sono nascoste completamente, da ogni punto di vista, da ogni lato. A valle e in haroe, ma all'occhio di chi guarda, nidme sembra, se adavara nitba e inenu klalbe mitziut. A noi sembra che la cosa non esiste. Non potremmo anche non sapere dell'esistenza di quella cosa, perché è totalmente nascosta. Questo è solo quanto è evidente a noi, ma non corrisponde alla verità. Veloso bilvad she haroe inenu roeta emet, non solamente chi vede non vede la verità. E la odroe tashekera mechasela emet. Non solo non vede la verità, ma vede la falsità che copre la verità. Cioè, non vedere la verità è una cosa. È insaputo. Un'altra cosa è credere il contrario della verità. Questo significa falsità. Il non avere la verità non è sempre una falsità. Semplicemente può essere la mancanza della verità. Ma poi c'è anche un'altra fase, che è la falsità, che è ancora di più. Vero? E ciò che ricopre nella metafora è la ciò falsità. Che ricopre, esatto. Venidme lo sheua emet, cioè la falsità si definisce col fatto che tu credi che questa è la verità, mentre è un'altra cosa la verità. Si rende visibile la falsità perché crede la verità. La persona a volte non è cosciente di questa affermazione. A volte no, giusto? Sì, infatti. A volte non è cosciente. Perché uno usa la parola falsità, no? Falsità è come falsità. Una negativa, diciamo, di noi uomini. Invece in questo senso è proprio una visione... Falsità nel senso obiettivo, non nel senso soggettivo, che tu sei un falso, per questo vedi la falsità. Tu potresti anche essere onesto, ma la realtà che credi sia è falsa. È falsata la realtà. La realtà è falsata. Copre quello... Sì, no, era giusto per... Sì, sì, sì, certo. Non sta parlando a livello di uomini, sta parlando a livello di... Sì, sì, ho capito. Okay. Esatto, non a livello di uomini, a livello della realtà obiettiva. Esatto. Ubazeu yitrona choshech rachmana litzman litzlan shel ribui elemot vesterim bagalut acharon al mashe kadmulo. È in questo proprio che si esprime la aggiunta, la maggiore oscurità. Rachmana litzman dice che Dio ci salvi della grandissima oscurità di questo ultimo galut, di questo galut in cui viviamo adesso, di questo esilio rispetto a quelle precedenti. Te asine agam sheayulo aleinu ribui lemot veserim, anche se nelle altre situazioni c'erano anche lì problemi, xerot raot, decreti negativi, rachmana litzlan, aval al kol panim haya nireh haemet mitoch hasheker, ma all'interno del falso, dell'oscurità, si poteva un po' vedere la verità, ancora ci si poteva aggrappare alla realtà vera, divina. Ma in questo galut, dice il teva è così forte, cioè la natura, cioè l'affondare della verità è così forte che ciò che è falso sembra essere vero, cioè tutto il contrario. Vesoveve takol che igula soveve makiv katan gadol. La teva, la natura, nasconde e ricopre e circonda tutto, così come un cerchio copre completamente la cosa che contiene all'interno. Allora cosa significa? Significa che quando noi abbiamo parlato dell'idea della natura come qualcosa che, cosa fa? Nasconde la realtà. Qui stiamo dicendo che il modo in cui noi viviamo questa cosa, in questa ultima fase del Galut, è ancora maggiore nell'oscurità rispetto a come poteva essere nelle altre galuyot. Forse questo è il motivo per cui in quelle altri esili ancora c'erano in alcune fasi profeti o altri tipi di diciamo così sparsi, connessione, legame, eh? Adesso sono più sparsi anche fisicamente, siamo più sparsi in questo galut. Ci sono tanti aspetti a questa cosa. Sì, noi quando si dice nascosta è nascosta dalle apparenze, praticamente non è che è nascosto dalle apparenze, sì. cioè che una cosa comunque sta là, se tu che non la vedi praticamente, e per questo noi la riteniamo falsa. Non so se riesco a spiegarmi. Certo, come... nascosto si intende all'apparenza, perché per la nostra visione. Sì, assolutamente. Questo abbiamo fatto per questo proprio la metafora del Tava Bayam, della presenza nel mare, nella non conoscenza o nel non poter vedere quello che è nascosto. Sì, assolutamente. Alla nostra presenza è così. Allora, il motivo per cui abbiamo approfondito questa cosa è perché siamo partiti dal concetto delle nizzozot, di quelle scintille che sono nascoste. Nel prossimo capitolo vedremo come abbiamo iniziato parlando delle prove, no? Che le prove ci aiutano a salire a un altro livello. Questo fa parte di quelle prove. Quello che abbiamo descritto adesso è la più grande prova alla quale veniamo sottoposti, che include, diciamo così, tutte le prove della vita, tra virgolette. E proprio superando queste prove si può rivelare quella scintilla che è là nascosta. E spiegheremo nel prossimo capitolo come funziona questa dinamica.